sicuramente una volontà del passeggero, diciamo, di utilizzare e di ritornare alle tecnologie tradizionali, quindi proprio la gestione dell'esperienza del viaggio da parte del passeggero grazie alla tecnologia e a questo concetto, diciamo, di self-service è stato completamente stravolto in questo momento. Questo chiaramente dà grossi vantaggi anche da un punto di vista della gestione del flusso dei passeggeri, pensiamo agli aeroporti nelle giornate di picco, per esempio estive, per quanto riguarda i passeggeri europei. Oltre a quelle che abbiamo già citato, come si stanno evolvendo le tecnologie negli aeroporti? Ad esempio, il controllo biometrico è già realtà? Sì, il controllo biometrico è già realtà, diciamo forse spinto anche da esigenze legate alla sicurezza. Sappiamo sfortunatamente determinati accadimenti hanno richiesto di implementare maggiori controlli all'interno degli aeroporti, sugli aerei, e questo chiaramente impatta molto, diciamo, l'esperienza del passeggero. Ad oggi le tecnologie biometriche sono una realtà, vengono utilizzate, abbiamo già per esempio esempi di soluzioni che automatizzano il controllo dei passaporti alle frontiere. Un controllo passaporti normalmente richiede circa un minuto da parte dell'addetto. Con queste tecnologie biometriche siamo scesi a 20 secondi. Questo significa fondamentalmente trattare 3 passeggeri in un minuto invece che uno, e questo chiaramente ha un grosso impatto. Pensiamo anche semplicemente alla riduzione delle code. Ci sono altre tecnologie sempre basate sul biometrico che permettono addirittura di automatizzare il transito del passeggero all'interno dell'intera area aeroportuale, quindi dall'inizio del viaggio fino alla, diciamo, fino al suo termine, addirittura in qualche caso fino al parcheggio. È possibile addirittura riconoscere o avere informazioni su dove si è lasciata la macchina utilizzando sempre tecnologie biometriche in arrivo. E questa, se vogliamo, è un po', diciamo, una novità. Dalle bandiere lilla ai motori di ricerca per il turismo accessibile, fino ai dispositivi tecnologici per le persone con deficit sensoriali. Come sta cambiando il mondo dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità? Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do. Focus sui trend. Se non vi è capitato di farlo prima, andatevelo a vedere sulla nostra pagina Facebook, il trailer delle Paralimpiadi di Rio 2016. Oltre 7 milioni di visualizzazioni, titolo We Are the Superhumans, è il video simbolo di quella che viene definita la nuova cultura dell'abilità. Badate bene, dell'abilità, non della disabilità, ed è un passaggio non da poco. Il più grande errore della storia della BBC, ha avuto modo di dire il presidente del gruppo media, è stato quello di non acquisire i diritti delle Paralimpiadi. Le ha prese infatti Channel 4, che li detiene tuttora. Non solo nel linguaggio, anche nei consumi, quindi prodotti e servizi, c'è una rinnovata attenzione alle persone con disabilità, persone che a livello numerico rappresentano, pensate, la terza nazione al mondo. Questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, da dove partiamo? Possiamo partire da quelle iniziative che nascono sempre più frequentemente di unione tra associazioni, diciamo, pubbliche e private, proprio per favorire così la revisione, come hai detto tu, di servizi e di prodotti per avere una maggiore inclusione per le persone con disabilità. E sicuramente il turismo, l'ospitalità è un settore in cui c'è una bella fioritura, diciamo, di queste iniziative. Posso citarvi per esempio Bandiera Lilla, che è una certificazione con la quale adesso tutte le regioni italiane possono segnalare la presenza di offerte di turismo più accessibile dei propri comuni, ecco. Quindi uno strumento che mette insieme il sostegno e la promozione sociale con un vero e proprio marketing turistico, insomma rilancio anche economico per regioni e comuni. E per il turismo accessibile, Isabella, esistono ormai molti motori di ricerca. Sì, assolutamente, perché un grande ostacolo, no, ai viaggi per le persone con disabilità è proprio la difficoltà anche solo di raccogliere in modo veloce e facile delle informazioni valide, aggiornate su dove poter trovare una buona ricezione appunto accessibile. Ma adesso, come hai detto tu, ci sono diversi motori. All'estero, molto bello, perché appunto è funzionale ma anche bello, la piattaforma Accommable, che è inglese, è attiva dal 2015 e permette a chi ha disabilità motorie di trovare un alloggio tra più di 1000 soluzioni in 60 diversi paesi, quindi lavora a livello internazionale. Da noi Village for All è una garanzia per poter scegliere tra diverse strutture, quindi non solo hotel ma anche, non so, agriturismi, stabilimenti balneari, musei, ecco, per trovare accessibilità sia per persone con disabilità motorie ma anche di altro tipo, per esempio sensoriale, no? Cecità, sordità, oppure anche con i problemi che arrivano con l'anzianità. Ecco, le strutture valutate proprio personalmente dagli ispettori si trovano o in Italia o in Croazia. E più recentemente, ecco, il portale bookingability.com alla fine dell'anno scorso proprio si è aggiudicato il premio nazionale per l'innovazione dei servizi, ed è un portale organizzato proprio da Confcommercio Imprese per l'Italia e permette la prenotazione, diciamo, in tempo reale di strutture ricettive appunto adatte. Anche il mondo dell'innovazione e delle start-up si è concentrato sul settore. Il caso si simbolo è quello di Horus, la startup italiana per le persone cieche, citata recentemente dalla rivista Forbes. I suoi fondatori figurano unici italiani tra gli imprenditori under 30 più talentuosi. È un dispositivo che io definirei fantascientifico, perché permette ai non vedenti proprio di, oserei dire, di udire la realtà circostante, ed è un device, un dispositivo indossabile, ed è composto da una cuffia che è come quelle sportive, no, che passa dietro la testa, fornita di telecamere e di sensori, no, ed è collegata con un cavo sottile ad un'altra parte piccola, perché è tascabile, poco più grande di uno smartphone, ed è l'unità di elaborazione con il processore e la batteria. Ecco, il dispositivo che ha naturalmente dei tasti che attivano, si utilizzano facilmente e attivano un menu audio a diverse funzioni. Per esempio avverte quando la persona è in movimento se ci sono degli ostacoli, genera dei suoni, no, di diversa intensità, tonalità, suoni definiti 3D, no, che si spostano per indicare la posizione e la distanza anche esatta dell'ostacolo sul percorso, ma fa anche delle cose appunto fantascientifiche, riconosce i volti delle persone, cioè impara a riconoscere questi volti, e la volta successiva che l'utilizzatore appunto di Horus incontra questa persona, Horus avverte automaticamente chi sta incontrando. Poi riconosce gli oggetti, cioè una percezione 3D, se gli si insegna a riconoscerlo facendo ruotare l'oggetto nel campo visivo, la volta successiva riconosce l'oggetto, legge i testi stampati non solo sulle superfici piatte, e soprattutto riesce a tradurre in una breve descrizione le foto, le cartoline, i paesaggi, ma anche lo scenario reale. Quindi chi lo utilizza ha, grazie a questa intelligenza artificiale, una panoramica di quello che si trova davanti. Un altro dispositivo che arriva dall'America, in questo caso è stato creato da un'azienda di Berkeley e da un esperto, Don McPherson, con il suo team. È un dispositivo che è assolutamente analogico, ma anche questo è spettacolare. È un paio di occhiali, si chiamano Enchroma e sono stati creati per daltonici. Il payoff è Color for the Color Blind, e praticamente serve appunto a quelle persone che hanno un deficit visivo, per il quale il colore rosso e il colore verde sono indistinguibili. Ecco, naturalmente è una cosa piuttosto complessa, ci sono diversi tipi di daltonismo, diversi livelli, però in pratica la banda dei due colori con questo deficit si sovrappone, no? Si crea confusione. E questi occhiali, che sono stati creati e testati a livello virtuale, praticamente hanno creato queste lenti filtrate, poi le hanno testate diverse volte per fare in modo che una volta indossati tagliano alcuni intervalli di frequenza del colore e controbilanciano la sovrapposizione, e questo fa sì che poi le persone possano vedere nel modo più normale e colorato possibile. Ecco, sono già in vendita, tra l'altro costano tra i 350 e i $600 a seconda della montatura, perché in realtà sono anche molto, molto belli. E poi ci sono i casi che vanno raccontati di imprenditori di successo. Questo è un aspetto secondo me importantissimo, perché in questo caso le persone con disabilità diventano proprio esse stesse attori del cambiamento, come hai detto tu all'inizio, disabilità che diventa abilità. Un caso che mi è piaciuto molto è quello di una linea di moda, Down Tuxia Bell, che è stata creata da una giovanissima 19enne guatemalteca che ha già presentato la sua collezione alla London Fashion Week dell'anno scorso, ed è una ragazza con la sindrome di Down. Lei fin da piccola voleva fare la stilista e, nonostante appunto abbia avuto più di un rifiuto dalle scuole di moda, dalle università di moda, ha imparato a cucire, a fare a maglia da autodidatta, e poi con il gran supporto della sua famiglia e soprattutto la sua forza di volontà ha continuato e ha creato questi abiti, questa collezione che tra l'altro utilizza i tessuti, no, del Guatemala, quindi coloratissimi con i tessuti e i disegni del popolo Maya, e sono veramente molto, molto belli. Ecco, la sua storia è stata tra l'altro raccontata anche dalla BBC, che l'ha scelta come una delle 100 Inspiring Women del 2016. Ecco, un altro esempio di questo tipo, ma italiano, è quello di Daniele Regolo, che è appunto una persona che soffre di un deficit uditivo grave, ma proprio a partire da questa sua disabilità ha creato un successo, un'esperienza imprenditoriale di successo. Lui ha avuto delle esperienze lavorative assolutamente frustranti e da qui ha capito che poteva cercare di migliorare questo aspetto, cioè la possibilità di aiutare sia le aziende che i singoli lavoratori con disabilità a potersi incontrare e ottenere qualcosa di positivo da entrambe le parti. E così ha creato JobMeToo, che è una piattaforma online di domanda e offerta di lavoro, appunto, in cui le persone con disabilità che cercano lavoro possono accedere gratuitamente al portale e creare, guidati appunto da JobMeToo, un proprio curriculum dettagliato e arrivare all'incontro con le aziende che invece usufruiscono di questo servizio a pagamento e con diversi appunto livelli di accesso, e arrivare, dicevo, preparati e coscienti delle proprie reali potenzialità, quindi senza svalutare quello che in realtà possono fare. Ecco, l'agenzia fa un lavoro molto accurato, individualizzato, no? Ogni disabilità e ogni livello di professionalità viene orientato verso una posizione lavorativa adatta, e quindi questa è una cosa assolutamente positiva, perché anche le aziende da parte loro hanno bisogno, hanno interesse sicuramente, hanno bisogno di servizi specializzati di questo tipo. Prodotti e servizi, dunque, trovate tutti i link come sempre sulla nostra pagina Facebook. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa. Questa sera parliamo di felicità. Sì, parliamo di felicità, che è un po' un tema ricorrente dei nostri incontri, ma lo facciamo partendo da una curiosità, e cioè dal grande successo in questo momento della via danese alla felicità. Ci sono libri, riflessioni, in particolare io ne ho scelto uno, che è il metodo danese per vivere felici, di Marie Thurel Söderberg, e che mette in rilievo questa, diciamo, specificità nazionale, che è IG, che in realtà si scrive IG con la Y, e che è una parola intraducibile che significa essere soddisfatti. Insomma, è l'autrice, questo è un libro che è stato bestseller in Inghilterra per molti mesi, racconta come il rapporto dei danesi con la natura, con la casa, con la vita quotidiana abbia in sé questa, diciamo, caratteristica di sentirsi soddisfatti. Si tratta di un vero e proprio fenomeno, i segnali sono molti. L'Oxford Dictionary l'ha inserita fra le parole dell'anno, subito dopo post verità e prima di Brexit, e poi basta fare un salto in libreria, troviamo interi scaffali di libri che contengono questo termine. L'hashtag spopola su Instagram. Filosofia di vita, Francesco, o questione di marketing? Allora, io direi entrambe le cose. A me sembrava interessante sottolineare questo fenomeno, perché è quello che noi non riusciamo a fare, noi italiani. Io credo, se noi fossimo bravi come i danesi a vendere la via italiana, la felicità, potrebbe avere ancora più successo. La parola noi non l'abbiamo trovata. No, non l'abbiamo trovata, anzi noi alla fine purtroppo continuiamo a figurare tra i popoli più infelici del mondo, anche se poi sappiamo che, diciamo, questo è più che altro anche un vezzo, no? Del lamentarci di quello che siamo. Però sicuramente la Danimarca ha in questo momento alcuni valori che sono emergenti e che si stanno rafforzando, quindi la sostenibilità, il rapporto, l'empatia, il rapporto caldo anche con gli altri, però ancora una volta poi c'è tanto marketing ed è quello che noi siamo meno in grado di fare. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.